A volte noi facciamo canzoni di merda per non poter scegliere. A volte noi facciamo figure di merda Primavera. Mai avevo messo in conto in questa vita di fare il pagliaccio a primavera. Scansati, difendimi, ma non mi disturbare. Scansati, difendimi, ma non mi disturbare. A volte noi costruiamo la nostra fortezza in un posto irreale. A volte noi non badiamo troppo a noi stessi, non ci interessa. A volte noi non badiamo troppo a noi stessi, non ci interessa. E non lo so voi, ma io mi sono rotto i coglioni di fare la comparsa in questo mondo fatto e costruito da idioti che non sanno fare 2 più 2, non sanno fare assolutamente nulla. Io mi sono stancato di fare la comparsa in questo mondo idiota che non ha più nessun valore, non ha nessuna più convinzione, nessuna più verità. È tutto rotto, tutto rotto, è tutto rotto, è tutto rotto. E non lo so voi, ma io mi sono rotto i coglioni di fare la comparsa in questo mondo fatto e costruito da idioti che non sanno fare 2 più 2, non sanno fare assolutamente nulla. Io mi sono stancato di fare la comparsa in questo mondo idiota che non ha più nessun valore, non ha nessuna più convinzione, nessuna più verità. È tutto rotto, tutto rotto, è tutto rotto, è tutto rotto. E che mi frega se la canzone fa cagare. Sei tu che mi fai vomitare. In verità sei tu il più grande. sei.